come al solito un coacervo di cause, e ricordiamo comunque che probabilmente molti investitori non si aspettavano che fosse così imminente un aumento di capitale, visto che è stato convocato pochi giorni fa il consiglio di amministrazione e oggi è stata, diciamo, resa nota la tecnicalità di questo aumento. Beh, ma si sapeva che si sarebbe fatto, cioè tu pensavi che... Sì, però sai benissimo in questo settore che fino a che i soldi non vengono richiesti, gli risparmiatori e anche molto spesso gli investitori più importanti pensano, o forse si illudono in questi anni, se parliamo un po' di un titolo come un credito, che qualche cosa, il cigno si possa, non quello nero ma quello bianco, possa liberarsi in volo. E magari si aspettavano delle condizioni particolari che in realtà qualsiasi persona un po' che conosce il titolo e che soprattutto ha in mente che la richiesta era di 7,5 miliardi di euro, quindi non proprio un aumento di capitale di pochi bruscolini, sarebbe stato comunque molto impegnativo al di là della formula matematica con cui sarebbe stato estratto il valore, perché per chiedere un simile aumento certo potevi chiederlo con un prezzo più basso o più alto, però l'impegno è molto alto in un momento di mercato dove il trend del settore bancario non solo italiano ma a livello mondiale e europeo è ancora sicuramente ribassista, e quindi c'era sicuramente da aspettarsi, come è successo in altri momenti di capitale, che molti investitori all'aumento sarebbero scappati. Qui sicuramente c'è stato qualcosa di più, come hai detto il prezzo, lo sconto così elevato ha sicuramente, da quel che posso interpretare io, le persone, gli analisti che ho sentito, che comunque abbiamo commentato la notizia, diciamo, segnala un'estrema ulteriore debolezza, cioè da una parte un prezzo basso sì, serve per renderlo più attraente per i piccoli investitori, ma lo si può leggere anche in un altro modo, cioè il fatto che le banche che hanno aderito al consorzio di collocamento, che peraltro sono diventate da 14 iniziali una pletora ancora più importante, segno che molte banche hanno chiesto di partecipare con quote sempre più piccole, quindi si è cercato e si sta cercando di avere una rete molto più grande di banche che possono... Anche un po' obbligata, perché molti grandi soci hanno già detto che aderiranno, ma per una quota inferiore rispetto alla quota di competenze, infatti. Esatto, questo era il secondo punto che volevo toccare, però nel primo un prezzo così basso, come dire, le banche, da quel che risulta, che hanno deciso di partecipare al collocamento, hanno chiesto di avere un prezzo basso di aumento, e questo perché probabilmente il ragionamento che c'è dietro è se poi vi è un inoptato e queste azioni non verranno sottoscritte dai piccoli e dai grandi investitori, dovremmo sottoscriverle noi, almeno che il prezzo sia molto basso.